buongiorno. Il programma prevede di parlare di asimmetrie, di luci della ribalta che non si spengono mai e del problema dell'età dei propri compagni di manifestazione, nonché forse, se ce la facciamo, di treni.